Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea di temi europei, di giornali europei. Questa settimana cominciamo da I Catimerini, che è un quotidiano greco, e come spesso accade lo possiamo leggere non perché io sappia il greco moderno magari, ma perché voxeuropa.eu lo ha tradotto. L'articolo riguarda tutte le difficoltà della Grecia. Abbiamo parlato nelle settimane scorse del riaffacciarsi dello spettro della Grexit, ma perché? Perché le difficoltà non sono state risolte, perché le riforme che il primo ministro Alexis Tsipras sta cercando di introdurre non sono state passate, perché c'è all'orizzonte un'altra tranche di prestiti che forse non verrà concessa dalle autorità europee, dal Fondo Monetario Internazionale. E allora I Catimerini titola questo articolo La tempesta perfetta all'orizzonte, che riguarda anche l'Europa in generale. Scrive infatti Alexis Papacelas: sull'Europa e la Grecia sembra si stia addensando una tempesta perfetta, mano a mano che l'irrefrenabile afflusso di rifugiati e migranti va a delineare un tipo di scenario che solo degli analisti folli sarebbero riusciti a immaginare. Ammettiamo per ipotesi che il trattato di Schengen venga temporaneamente sospeso e che l'Europa decida che i suoi confini reali non sono più in Grecia. Il flusso di migranti non si arresterebbe comunque. Stando alle previsioni di chi ha dimestichezza con la questione, in un'eventualità del genere fino a 500.000 persone si ritroverebbero bloccate sul suolo greco, senza la possibilità di raggiungere la Bulgaria e l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. I Catimerini fa anche dell'autocritica, non dà la colpa solo a questi episodi che ci sono stati soprattutto in Austria, di tentativi di annullare il trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi dell'Unione Europea. E quindi I Catimerini scrive: la Grecia sembra essere il capro espiatorio ideale, ma ci mette del suo. Invece di affidarsi a un missionario isolato che va in giro per l'Europa perorando la causa della Grecia rispetto alla crisi dei rifugiati, dovrebbe sostenerlo in modo più deciso, mettendogli a disposizione tutte le migliori risorse del paese in termini di organizzazione, sicurezza e politiche dell'immigrazione. E così, insomma, poi naturalmente c'è anche un accenno alla Grexit. La Grecia corre il rischio di trovarsi tagliata fuori dall'Europa, da una parte per colpa della crisi dai rifugiati e dall'altra per le recenti minacce di Grexit, se la review del pacchetto di aiuto in corso non dovesse sortire alcun esito. Le sirene del populismo anti-europeo cercheranno nuovamente di sedurre la società greca e il suo primo ministro Alexis Tsipras. E come abbiamo fatto nei mesi passati, continueremo a seguire questa vicenda della Grecia e soprattutto della Grexit. A proposito invece di Brexit, di cui si parlerà molto, anche perché giovedì c'è stato un vertice europeo le cui conseguenze sono ancora poco chiare, però Vox Europe giustamente fa un discorso un po' più ampio e dice che parlare di Brexit è una sfida anche per i mezzi di informazione. Il 2016, infatti, al di là delle discussioni che ci sono in atto in questo momento a Bruxelles, è l'anno del referendum, salvo cancellazione dell'ultima ora, che il premier britannico David Cameron ha promesso sulla questione della Brexit. Scrive Vox Europe: finora la discussione sulla questione Brexit si è svolta nel Consiglio europeo, a porte chiuse, al riparo da sguardi indiscreti. In questa istituzione, che riunisce i capi di Stato e di governo europei, è in corso una curiosa trattativa, e però appunto poco trapela all'esterno, e quindi si fanno dei sondaggi, ne abbiamo dato conto anche nelle settimane scorse, però anche i sondaggi sono fondati appunto sul proclama usciamo dall'Unione Europea perché l'Unione Europea ci fa più male che bene, ma non è ancora chiaro esattamente su quali termini invece i cittadini britannici potrebbero, su quali novità potrebbero invece esprimersi con questo referendum, che dovrebbe dire sì o no, sì dentro o fuori dall'Unione Europea, non dalla zona euro, perché sappiamo che la Gran Bretagna, pur essendo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, nell'euro non è mai entrata. Torniamo ai rifugiati, alla crisi dei migranti, altro tema a cui forse dovremo dedicare forse appunto rassegne monografiche, perché anche quando smettiamo di occuparcene noi, ma anche i giornali che citiamo, in realtà i flussi migratori non si fermano in nessuno dei corridoi, né quello del Mediterraneo, anche per questo inverno caldo che abbiamo avuto, né soprattutto in quello balcanico. E allora Social Europe si è focalizzata sulla Germania e la crisi dei rifugiati, ipotizzando che le tensioni politiche all'interno del paese legate agli immigrati, e sappiamo che ce ne sono state tante, sono destinate a peggiorare. Scrive Henning Mayer in questo articolo: la crisi dei rifugiati ha già diviso la politica tedesca e quella europea fino a un punto che molti non avrebbero creduto possibile fino a qualche mese fa. All'interno del partito conservatore, la CDU-CSU, ci sono discussioni astutamente celate sulla possibilità di disfarsi di Angela Merkel, e Allianz für Deutschland, il partito populista di destra tedesco, sta salendo nei sondaggi. E naturalmente quella delle reazioni appunto politiche, del rafforzarsi dei partiti populisti e di estrema destra che cavalcano la questione dei migranti è un problema che, come scrive anche, come si legge anche in questo articolo, naturalmente non riguarda soltanto la Germania ma l'intera Europa. E la Frankfurter Allgemeine Zeitung è tornata sull'argomento, ma da un punto di vista economico, spiegando che gli economisti sono scettici sul ruolo positivo che l'integrazione dei profughi potrà avere sull'economia tedesca e su quella europea. Secondo un sondaggio condotto dall'IFO, un istituto economico di Monaco in collaborazione con la stessa Frankfurt Allgemeine Zeitung, basato su un questionario distribuito a 220 professori di economia, e questo appunto l'esito. Una maggioranza relativa degli interpellati, il 40% si attende degli svantaggi per la Germania, solo il 23% prevede un contributo positivo. Forse ricorderete che nei mesi scorsi avevamo anche citato dei sondaggi che parlavano di effetti positivi dell'integrazione, dell'immigrazione, e quindi quando ha successo dell'integrazione, anche perché c'è una domanda maggiore dell'offerta per certi tipi di lavori che i profughi potrebbero, se integrati, potrebbero coprire. Però adesso questo nuovo dato degli economisti tedeschi. Parliamo un po' di noi. Il premier Renzi nei giorni scorsi ha ricevuto molte critiche in Italia, continua a riceverne, e vedremo tra l'altro sulla discussissima disegno di legge Cirinnà come andrà a finire, ma nel frattempo in Francia invece qualche settimana fa era stato Le Figaro a tessere le sue lodi, questa settimana è sostanzialmente Le Monde, quindi prima un quotidiano dichiaratamente conservatore e invece Le Monde un quotidiano di centrosinistra. Nella scorsa settimana per due giorni Le Monde ha parlato dell'Italia che cambia con il presidente del Consiglio Renzi, e ha scritto che il primo ministro più giovane della storia dell'Italia affascina, attira, esaspera. Beh, forse non ha questi tre verbi, non ha del tutto torto Le Monde nel riassumere appunto le reazioni che gli italiani hanno a Renzi. Ieri il quotidiano francese ha dedicato due pagine appunto a Renzi, ha chiamato quello dell'Italia un fragile risorgimento, però in questi due anni comunque ha riassunto per i lettori francesi le innegabili riforme che sono state avviate. Poi che, come dice peraltro lo stesso Renzi e i suoi ministri, si possa sempre far meglio è un altro discorso, ma che delle riforme siano state avviate anche sul lavoro importanti, questo è altrettanto innegabile. Un articolo abbastanza divertente invece sulle Figaro, sugli automobilisti stranieri e anche europei. Secondo appunto fonti di Le Figaro, Parigi starebbe studiando degli accordi bilaterali con tutti i paesi vicini, quindi anche con l'Italia, per fare in modo che i proprietari delle auto immatricolate all'estero paghino per le infrazioni commesse sulle strade di Francia, magari durante un viaggio per motivi turistici. E insomma, credo sia capitato a tutti almeno una volta di prendere una multa quando magari sei in un paese straniero e dire non la pago perché non è il mio paese. Ecco, Parigi sta studiando un metodo per farla pagare, forse anche giustamente, nel momento in cui appunto si viene colpiti da una multa per aver commesso una qualche infrazione. Un articolo invece un po' inquietante su Financial Times, che si chiede: dopo Brexit siamo Grexit, adesso arriverà il Frexit? Perché? Perché che vorrebbe dire uscita dalla Francia, dall'Unione Europea o dalla zona euro? Perché in Francia il Front National conta proprio sul referendum con cui gli elettori britannici dovranno pronunciarsi, quello di cui abbiamo parlato prima, sulla permanenza nel paese dell'Unione Europea, per alimentare una campagna euroscettica ancora più di quanto è stato fatto finora in casa propria. Tutto a vantaggio di un partito che si prepara, lo ricordiamo, alle presidenziali che in Francia saranno nel 2017, forte di sondaggi secondo cui Marine Le Pen arriverà almeno al secondo turno. Torniamo un attimo a Matteo Renzi, perché invece sempre però restiamo su Financial Times, che ha ricordato, facendo un po' un reality check, nel senso che Le Monde era un po' come se gli articoli di Le Monde vedessero il bicchiere mezzo pieno, cioè un paese, l'Italia, che sta cercando di cambiare sotto l'impulso di un premier giovane pieno di energie. Financial Times però riassume anche le tante sfide, su cui, tanti fronti su cui Matteo Renzi sta combattendo, naturalmente c'è tutta la questione delle banche, della flessibilità, delle nuove regole europee e di come non è detto che appunto alla fine abbia la meglio avendo così tanti fronti da gestire. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli e se volete ritrovate naturalmente questa puntata, queste segnalazioni e quelle delle settimane scorse sul sito di Radio 24. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.